Palla Spicchi di Dario Ricci. Buonasera, buonasera, eccoci ritrovati con Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio De Luca in redazione. Ultima giornata di regular season, partite iniziate alle 20 e direi parecchio stuzzicanti, perché si decide la griglia dei playoff. Allora, siamo intorno alla metà del secondo quarto di gioco su quasi tutti i campi. Questi parziali: Siena-Sassari 26-33, Milano-Brindisi 36-32, Pesaro-Avellino 23-36, Bologna-Cantù 22-26, Venezia-Varese 27-19, Cremona-Biella 34-18, Montegranaro in vantaggio sul parquet di Roma 27-25, così come in vantaggio a Caserta è anche Reggio Emilia per 27-30. Ora va da ricordare che sicure del loro piazzamento sono solamente Varese al primo posto, Sassari seconda e poi la stessa Venezia ottava, e quindi in questo momento con questi parziali l'unico accoppiamento sicuro per i playoff che partono da giovedì, con primo turno, lo ricordiamo, al meglio delle sette partite, è Varese-Venezia, e quello non si tocca. Poi però, visti i parziali che sono attualmente in corso, c'è uno stuzzicante dallo stesso lato del tabellone: Acea-Roma-Montepaschi-Siena, mentre la seconda classificata, il Banco di Sardegna Sassari, se la vedrebbe al momento con la Lenovo Cantù, e l'Armani, Lea 7 Emporio Armani Milano, pescherebbe la Trenkwalde Reggio Emilia. Tutti accoppiamenti, a parte appunto Varese e Venezia, da verificare alla sirena finale. Intanto andiamo a vedere però cosa sta accadendo sui campi, e partirei da Carmelo Presti Simone in collegamento proprio da Caserta, dove la Trenkwalde è in vantaggio sulla Juve Caserta. Buonasera Carmelo. No, niente da fare, tiro da tre punti di Carmelo questa volta, che prende il ferro perché non si sente granché. Andiamo invece a Siena, dove sono in campo, diciamo, in quello che è tecnicamente il big match, Montepaschi e Banco di Sardegna Sassari, con Sassari Massimo Sollazzini che finora sta conducendo e anche bene, vero Massimo? Sì, di minuto ancora di più, in questo momento siamo più 11 per la squadra sarda, ha fatto verificarsi da Terni nel secondo quarto, ma in questi ultimi due minuti Sassari ha dato veramente l'impressione di entrare in fase di dominio della gara, soprattutto nel segno di Travis Miller, che in questo momento ha 14 punti all'attivo, ma soprattutto ha delle soluzioni veramente molto forti, davvero, che ha saputo tollerare questa sera, e anche nel segno di un ex di lusso, Quincy Thornton, che ha contribuito a scavare il solco con un parziale di 9-0, 2-3 triple consecutive nel corso del Eh sì, un Thornton che quando torna rincrocia i colori senesi è da sempre il meglio di sé. Ho visto anche un ottimo Ress, autore di ben tre stoppate, che ha dato consistenza alla difesa senese. Proviamo a tornare da Carmelo Presti Simone a Caserta. Carmelo, ci sei? Sì Dario, eccoci qui, buonasera, bentrovati al Pala Maggior, dove Reggio Emilia è avanti 35-32 sulla Juve Caserta quando manca 1 minuto e 50 secondi alla fine del primo tempo. Partenza a raso per la Trenkwalde, che è passata subito avanti, ha messo subito il muto avanti con un parziale di 12-2, poi Caserta si è rifatta sotto con Michelori e Jelovac, realizzato un parziale di 12-5. Adesso la partita è assolutamente tutta da giocare. Oggi l'entusiasmo dei tifosi casertani sta sommergendo il nostro Carmelo. Andiamo da Stefano Valenti a Bologna. Bologna-Cantù, Stefano, qua dovrebbe essere un'atmosfera un po' più calma, perché Bologna di fatto non ha più granché da chiedere, anzi non ha più nulla da chiedere al campionato, se non l'iscrizione al prossimo, che a questo punto è garantita, sì, ma con un po' di sofferenza. Cantù cerca di affilare un po' le armi per una post-season in cui deve un po' ripartire da zero rispetto a una regular season un po' balbettante, no Stefano? Buonasera. Sì, buonasera da Bologna, effettivamente qui non sono come dire, circondato dal caldo tifo dei presenti, che comunque sono in buon numero anche stasera, una cinquantina da Cantù, quelli di Bologna un po' freddi anche perché qui le spaccature sul futuro societario si fanno sentire, oggi più o meno in 200 hanno manifestato contro l'ultimo corso societario augurandosi grandi novità per il futuro. Qui siamo a 1.29 dalla fine del secondo quarto e avanti Cantù di un punto, 30-29, partita bruttina, la Virtus però va sempre in campo con l'orgoglio dei suoi giovani desiderosi di trovare spazio e lo stanno anche meritando, reduci anche dalla vittoria di Brindisi, mentre Cantù è un cantiere aperto, abbiamo visto i tetti ribaltati da capo a fondo, abbiamo visto anche quattro americani assieme per Trinchieri, tra i quali Joe Ragland che è al debutto del campionato italiano, sta un po' annusando l'aria dei nostri parquet, per ora a 5 punti a referto, il migliore per Cantù è Tabu con 7, sorpasso Virtus e Lunetta 31-30 al momento, 1-13 da giocare. Grazie Stefano, allora andiamo invece a Roma dove la CEA Roma è in vantaggio adesso 37-29 sulla Sutor Montegranaro. Fabrizio Fabbri, ben trovato. Sì, buonasera a tutti, diciamo che Roma ha faticato un po' in avvio, poi ha allungato qui l'attenzione di tutti più che sul parquet del Palazzetto dello Sport nei confronti di quello che sta accadendo, e devo dire che a parte Peter Loran che ha iniziato molto bene e concluso meglio, è stato protagonista dal lungo di Roma, c'è un assoluto protagonista in campo ed è Carmelo Paternico che dopo aver appioppato un antisportivo al povero Panzini ha pensato bene di espellere Valerio Amoroso che certamente ha protestato, ma un arbitro esperto come Paternico magari poteva anche in alcune situazioni far finta di niente. Diciamo Roma in avvio abbastanza distratta, anche adesso non è che stia particolarmente spingendo, però è arrivato questo vantaggio a 9 secondi e 78, Taylor e Lunetta sbaglia il primo tiro libero, segna il secondo, 45-33 più 12, Roma sembra in controllo, vedremo che cosa sarà capace di fare. Cicciarini intanto va a tirare e sbagliare, c'è il rimbalzo preso da Gani Lavanna, autore io credo che finirà sugli highlight della Lega di una schiacciata del primo quarto paurosa come rimorchio in arrivo da un contropiede. Roma più 12 va negli spogliatoi per l'intervallo lungo con questo vantaggio e per capire chi sarà l'avversaria nei playoff. Roma vorrebbe Reggio Emilia, mi pare che però molte altre squadre vogliano Roma nei playoff. Sì. La linea per il momento, Dario. Aspetta Fabrizio, ti chiedo un flash su se hai visto in campo il nuovo americano di Roma. Sì, assolutamente, è un buon impatto quello di Bailey, sembra un giocatore al servizio della squadra, ha realizzato 3 punti, bene in difesa, ha scaricato un paio di palloni, l'impressione è buona, minuti di qualità per il momento per lui. Benissimo, grazie Fabrizio. Proviamo a tornare a Siena da Massimo Sollazzini, vedo Sassari in vantaggio. Sì, Montepaschi si è rifatta sotto, in questo momento sono 5 le lunghezze che la dividono dalla Sassari, 42-37, hanno voluto 36 dal termine, Bobby Brown in lunghezza in questo momento. C'è stato Marco Carraretto che è entrato dalla panchina, ha dato una scossa positiva ai senesi con due segnature di file, di cui una dalla lunga distanza. Adesso ancora Sassari in avanti con un rimbalzo offensivo, l'ennesimo, sono stati molti questa sera in sua preda, ed una soluzione di tiro che in questo momento viene sportata da un Daniel Hackett che obiettivamente questa sera è abbastanza sottotono fin qui. Bene, benissimo Massimo Sollazzini, quindi 42-37 per Sassari a Siena quando manca 1-12 all'intervallo lungo. Proviamo a tornare a Caserta dal nostro Carmelo, Carmelo Prestisimone. Con Caserta che ha la possibilità di passare avanti e lo fa con questo tiro libero di mordente, 38 Juve Caserta, 37 Trent Walter Reggio Emilia quando mancano 20 secondi alla fine. Secondo libero anche per Montenegro, più 2 che rimette il muso avanti. Sì, 36-35 per i casertani. Reggio Emilia prova adesso un po' a riprendere fiato. Facciamo ancora un flash da Bologna, Stefano Valenti. Sì, secondo quarto appena terminato, Bologna avanti 35-34 grazie al canestro più spettacolare della serata, un airball di Pullen che non è arrivato al ferro, ma Gadde forse in volo, ha preso il pallone segnato in pregevole rovesciata, più uno Bologna all'intervallo. Grazie Stefano. Beh, insomma, si vede anche un po' più di spettacolo, nervi un po' più distesi su molti campi in quest'ultima giornata di regular season. Intanto Milano è avanti 48-42 su Brindisi, anzi no, 48-44 in questo istante, mentre Avellino conduce per 47-30 sul campo di Pesaro. E per quanto riguarda le altre gare, 33-32 un punto di vantaggio di Venezia su Varese, 47-36 all'intervallo per Cremona su Biella, gara che di fatto è un'amichevole ormai a tutti gli effetti, visto che Cremona è fuori dai playoff e Biella addirittura retrocessa. Allora, adesso informazioni per chi viaggia, poi ancora tanto basket da raccontarvi. Palla spicchi. E allora vi stiamo raccontando la corsa verso i playoff, perché qua c'è lo scudetto maschile tutto da giocare, ma c'è stato lo scudetto femminile che si è giocato e ha trovato già il suo padrone. Di fatto è Schio che stende e ha steso Lucca anche ieri sera in gara 3 per 67-48 e ha conquistato il tricolore. E allora ben trovata una delle protagoniste di questo successo, Raffaella Masciadri. Ben trovata Raffaella. Buonasera a tutti, buonasera. Beh, allora, innanzitutto complimenti per questo ennesimo titolo. Il sapore che lascia quel triangolino sul petto appena conquistato, Raffaella? Ah beh, sempre un sapore magico, qualcosa di speciale, qualcosa di eccitante, diciamo, perché comunque, insomma, ripaga un po' di tutto il lavoro fatto durante la stagione, durante tutti i mesi, e quindi l'attimo di felicità è veramente poco, però insomma è una cosa magnifica. Ecco, quanto è valsa questa finale per il movimento basket femminile, che rispetto ad altre discipline, e penso ad esempio ai due campionati di pallavolo che stanno soffrendo parecchio, pur chiaramente con volumi e caratteristiche più contenute, riesce quantomeno ad essere a svilupparsi non facendo il passo più lungo della gamba, mi viene da dire. Sì, guarda, quest'anno purtroppo dalla televisione non siamo stati seguiti molto, ma naturalmente i playoff sono andati tutti in diretta, quindi credo che il seguito l'abbiamo avuto, perché comunque anche gli altri anni c'erano stati parecchi ascoltatori, c'erano stati share parecchio alti riguardo alle nostre partite. E fa sempre un bello spettacolo alla fine, naturalmente io sponsorizzo sempre basket femminile. Assolutamente, vedi, sei stata subito convocata appena ti sei cucito il tricolore esatto, sulla maglia. Molto, molto contenta di questa convocazione, infatti spero sempre che radio come voi ci aiutino anche a pubblicizzare il nostro movimento, perché comunque nonostante i problemi economici che magari alcune società stanno affrontando, però è sempre entusiasmante. Comunque anche la finale contro Lucca, nonostante si sia risolta in tre partite, però sono state tre partite intense dove comunque tutte e due le squadre hanno espresso dell'ottimo basket. Un buon basket. Senti Raffaella, tu che hai avuto anche esperienze nella WNBA, nella NBA femminile, che effetto ti ha fatto, che impressione ti ha fatto questa splendida prova di Marco Bellinelli, che di fatto 24 punti, 7 rimbalzi e 2 assist ha deciso in qualche modo gara 7 per i suoi Bulls contro i Nets? Insomma, tu che quei parquet li conosci, sai che certi numeri non escono a caso, eh? No, infatti purtroppo non le ho seguite queste ultime partite dei playoff, e neanche meno purtroppo di Bellinelli. Avevo visto una parte di gara 6, però naturalmente mi fa piacere e rende onore al basket italiano, perché comunque partecipare già al campionato NBA, partecipare poi ai playoff e riuscire a fare una prestazione del genere come l'ha fatta lui, naturalmente ci inorgoglisce tantissimo. E anch'io ho giocato i playoff fortunatamente in WNBA, e hanno un'atmosfera incredibile, ancora di più rispetto alla stagione regolare, perciò faccio i complimenti a Marco. E purtroppo è logico, speravamo di vedere, di avere tutti e tre gli italiani nei playoff, ma piano piano anche ci arriviamo. Solo con Marco il tricolore italiano si sta alzando e si sta facendo riconoscere anche là. Assolutamente d'accordo, Raffaella. Allora, grazie Raffaella Masciadri e complimenti ancora per il Grazie titolo appena conquistato con la sua Schio. Vogliamo subito a Milano da Roberto Nardella, intervallo di Milano-Brindisi 48 a 44 per i padroni di casa. Roberto. a voi. Buonasera qui dal forum, più 4 dunque per l'Olimpia a fine primo tempo, una partita dal saliscendi per la formazione di coach Sergio Scariolo contro quella guidata da coach Piero Bucchi, applaudito prima della partita dalla curva milanese, meno dal resto del palazzetto qui di Assago. Fatto sta che comunque le due squadre a fine primo tempo sono andate al riposo, con Milano avanti di 4 nel primo periodo, un altro ex della partita come Jeff Vigiano sul parquet a dettare il ritmo per Brindisi con 11 punti per il 24 a 27 esterno a fine primo quarto. Poi però Nick Melli si è trascinato i suoi sulle spalle, ha fermato la tripla del 32 a 32. Milano poi ha messo la freccia del sorpasso nel secondo periodo, si è rivisto anche sul parquet Ioannis Borosis che decisamente tornerà buono per l'Olimpia in chiave playoff, mentre siede in panchina in borghese Kit Langford per il problema alla caviglia, con Milano tra virgolette costretta a vincere per cercare ovviamente la miglior posizione nella griglia dei playoff. Benissimo Roberto, grazie per questo flash dal forum di Milano. Carlo Genta, ben Ciao Dario, buonasera a tutti. trovato. Domani, lo ricordiamo, alle 14, tutti convocati da Carlo Genta, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Beh, Carlo, ultima giornata, un po' in maschera, ma ti voglio stuzzicare sui playoff NBA, perché quello che ho visto fare da Bellinelli veramente mi ha entusiasmato. D'altra parte basta farlo giocare, no? Nelle altre gare è stato seduto e ha visto molto gli altri giocare. Ieri sera decisivo, ho fatto la notte in bianco proprio per Infatti vedere quella siamo tutti un partita. po' Mi sbattuti da spiace questa nottata, però insomma è un valsa po' la pena. per i Brooklyn Nets, che sono una realtà, la realtà nuova dell'NBA, sono una serie magnifica. E però secondo me per Chicago una grande impresa senza la superstar che sta Vinza che cravatta. Sì, Sono quel molto Derrick contento per Rose. Bellinelli. Sono molto Assolutamente. contento per Berinelli, che ha fatto una grande partita. Sono playoff magnifici e purtroppo adesso, purtroppo, tra virgolette, per un mese e mezzo ci tocca fare le notti in bianco per vedere questi che sono irresistibili, no, Dario? Assolutamente sì, come ci conferma Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buonasera. Beh, tra l'altro, ragazzi, vi informo che Memphis è in vantaggio 69 a 58 a Oklahoma City quando manca 1,57 alla fine del terzo quarto, e quindi anche questo secondo turno, Flavio, inizia con un bel po' di pepe, Anche perché non è un vantaggio episodico, fino alla partita la stanno facendo, come si direbbe nel calcio, sicuramente i Grizzlies, quindi promette di essere una serie molto lunga, molto intensa e molto interessante. Beh, devo dire che, ecco, quello che mi stuzzica parecchio, e non solo a me chiaramente, è questo incrocio tra Golden State e San Antonio, esperienza contro freschezza. Come va a finire, Flavio? Ma la cosa più logica è che alla fine gli Spurs abbiano qualcosina di più, però il momento emotivo in cui si trovano i Warriors, secondo me li rende una delle squadre più pericolose in assoluto. Quindi la palla pesa poco e una squadra del genere con la palla che pesa poco è veramente pericolosa per chiunque. E questa Chicago che è uscita così fisicamente logorata, ma emotivamente rinvigorita da questa gara 7 con Brooklyn, può dare almeno un po' di fastidio a Miami? Prima bisognerebbe capire quale Chicago ci sarà, Certo, perché cioè, hai ragione ovviamente anche tu. anche solo tra virgolette Henrik Deng sì o Henrik Deng no, comincia a fare un bel po' di differenza. Io penso che Chicago darà comunque del fastidio a Miami. Non ha vinto per caso e non ha vinto solo perché ci ha messo di più e ci ha messo di più, perché Brooklyn ci ha messo di meno e ci ha messo di meno. Ha vinto perché è una squadra più solida. Non scordiamoci che nelle ultime due stagioni hanno fatto il miglior record NBA prima di questa, quando hanno avuto Rose 2 stagioni fa e quando hanno avuto un po' di Rose 1 stagione fa, e quest'anno senza Rose assolutamente sono andati ai playoff, anche meno, hanno passato il primo turno, quindi è una squadra talmente solida che comunque se la giocherà fino alla fine. 30 secondi per Indiana New York, anche lì c'è da divertirsi. Sì, magari non da vedere per forza 110 punti ogni partita, però chiama la pallacanestro della Eastern Conference, quella fatta un po' più di tostaggine, se esistesse questa parola in italiano, e un po' meno di punti segnati, e allora se ami quel tipo di pallacanestro sei veramente a casa. Ecco, a noi ci piace pure quella, quindi stiamo a posto. Caro Flavio, grazie e appuntamento a domenica prossima. Sarà un piacere. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie a tutti i nostri corrispondenti dai campi, a Gianmarco Ferronato in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Palla Spicchi torna domenica alle 22, vi ricordo dai e vai. Io continuo un po' a farvi compagnia per gli altri appuntamenti dello sport della sera di Radio 24.